Luca, Luca. Ehi. Ehi, che? Ebbe. Ah, Luca. E Lu. Ebbe. Ehi, ebbe. Ehi, ma è già finita, eh? No, da verniciare. Ah, andata mezza. Mazza. Quelle calorie così, gatto, non che ti casi, ya. Uia, ma è, è il consumo? Ma il consumo, guarda, ho messo il primo tronchetto. Il primo tronchetto l'ho messo alle 3:30. E ha finito di consumarselo 5 minuti fa. E da che ora? Dalle 3:30. Alle 3:30, cazzo. Dovrebbe scaldare, dovrebbe scaldare parecchio. Certo, magari, specialmente quando scalda tutto il contenitore del ferro lì, cazzo, calore ne manda, eh. Ne manda sì, Gio Marino, a voglia, un bel pure. Certo, ma già piazzata l'hai, o così l'hai messa? Tanto per prima di finire l'hai provata dentro casa. Eia, è dentro casa. È piazzata così, capito? Provvisoria. Poi la devo verniciare, finirla e boh, capito? No, infatti ho visto quell'altra che c'aveva quel tipo confirmato. Sono oggetti belli, nel senso che poi prendono meno posto anche quelli lì, dai. Se ti considerare che scaldano molto, 4 volte di più rispetto a... È entrato il vicino a Giomesi Sciogli da Rogaglio a vederla poco fa. Questa misurava 300, sono entrato a misurare la sua misurava 99. Bisogna avere il risultato, dai. Bisogna passare accesa parecchio questa roba per un po' la resistenza che c'ha anche, capito? Io 3 o 4 ore, 5 penso che ci dovrebbe vedere un po' come non è, capito? Beh certo, per quello l'ho messa già, l'ho già collegata e la sto provando, ma va la lassù da Bagosa, non si bucca, non si bucca da Rogaglio. E così l'altro giorno ho stesso l'accesa, ma dopo un'ora e mezzo, 2 ore l'ho dovuta spegnere, farla spegnere perché non si poteva stare dal caldo. Infatti, caccia, lo grigio. Meno male solo c'è niente proprio che il calore le fa contatto lì, capito? Di fronte non c'è nulla, anziché lì dovrebbe andare molto bene. Se, certo magari la porta, vabbè la porta tanto, la tenda, se lasci la tenda lì guai. No, non ti crede Gianmarino. Non ti credere, non gli fa niente, tranquillo. Bisogna mettere magari una tenda che resista molto al caldo, perché quella è roba sintetica e il calore già lo sai così. Ma comunque già va bene, quando è verniciata è bella veramente quella roba, dai. Ma il vetro non ce l'hai messo però, no, perché non l'ho visto. No, Gio Marino, perché lo devo fare accorciare. Perché è troppo alto, capito? Lo devo fare accorciare di 3 centimetri. Ecco. E chi lo accorcia? Ma il vetro di accorciare. Lì dove abbiamo preso, ti ricordi lì al centro azzurro, dove abbiamo preso il vetro delle tue scale l'altra volta? Ma lì lo fanno. Lì lo accorciano. Sì, è certo. E ti ricordi che ci hanno fatto il vetro che abbiamo messo lì nelle finestre delle tue scale? Ho capito. Va bene lui, va bene, dai, va benissimo. Almeno sai che funziona bene, sei tranquillo, dai. Eventualmente, se qualcuno l'interessa, gliela diamo o no? E certo, ho già detto in giro. e chi fosse interessato. Ah, ma la società che non si può andare a casa. Oh, ya, mamma mia. E beh, gatta, c'è caldo. E poi lì, gatta, è stretto, c'è, è il caldo, si incuba in via. La parte certo non ci riesce a rimanere, no? Oh, gatta. Benissimo lui. E beh, se ti stai dicendo è venuta la vicina, che loro hanno la stufa a pellet normale, classica, no? E la sua misurava 99 gradi, neanche a 100 arrivava, capito? E gli ho fatto vedere la temperatura di questa, che era 300, oltre di 300. Se può ci rimane in capo. La regolazione, magari, tutto dipende dal regolatore della pelle, se così è. E quello sì. Ma io sto andando a legna oggi, sto andando a legna, non sto andando a pellet, capito? Ah, legna, cazzo! Ma tu hai provato quella fresca come ti ho detto io, a vedere un po' come riesce a funzionare bene, come te l'asciuga subito. Scusando, quella che ne abbiamo salito l'ultima volta da campagna, Giomari. Ehi, ecco la legna scalda anche di più, già lo credi, già, cazzo! Praticamente proprio legna dura, caro mio, e come scalda, catta, ti raddoppia il calore, cazzo, non è come quella legna morbida, come può essere Lukaku, o questa è legna morbida, non ne fa calore, capito? C'era qualche pezzo di alloro, poi non so se era cacco o l'altro, non lo so. Ehi, vabbè, già ce n'è legna giusto lui. Basta tagliare pezzettini, in mezzo già ce l'abbiamo a tagliare, per cui va bene ugualmente lui, va benissimo. E infatti adesso quando scendiamo me ne salgo un altro po', adesso domani mi taglio questa che ne ho qualche pezzo troppo lungo, capito? E vabbè, uno di questi giorni scendiamo, ci ho sceso ieri sera così a vedere un po', sta crescendo anche l'erba, adesso se no questa settimana, l'altra settimana bisogna scendere per forza a tagliare l'erba da una parte e dall'altra, tutta quanta. Non farla crescere troppo, sennò da voi avevo più tempo a tagliarla, invece quando è cresciuta appena appena ci mette molto di più poi a crescere, capito? Invece quando è troppo alta, ci metti il doppio del tempo. Ma va bene alla prossima settimana lì. Va bene alla prossima settimana. Oh, da se pure qualche sera ci siete. La mattina non si può scendere perché è gelata ivi. Gatto tutto bianco, gatto, sì che c'è il gelo, non si può fare, solo di sera si può fare, non tanto, perché dove c'è l'ombrino ci rimane ancora il ghiaccio. Perché non so, la settimana entrante si è messo pioggia, bisogna approfittarne quando ci sono le giornate belle. Ehi, aperto la giornata bella, scendiamo la sera e incominciamo. Ok. Ehi, va bene, ok Giomari. Ok, quella questione è arrivata oggi, arriva domani, dopodomani. Io ho guardato anche oggi, mi scrivi che non hanno spedito ancora. Li sto sempre contattando, ma niente. Mi dice il 18 a me, mi dice, ma non mi rispondi nemmanco, Ghizzi. È strano, perché dice il 14 o il 16, sul codice c'è scritto 14 o il 16, così che domani 14, così che dovrebbe essere da domani fino a insomma entro settimana arriverà là. Ma tu non devi guardare quella data lì, tu devi guardare quando loro spediscono, loro ti dicono che il tempo è quello. Ma se loro spediscono il 16, non ti può arrivare il 16. È quello, Giomari, non guardare la data, tu devi sapere quando loro hanno spedito, non quando ti dice che presa poco e il pacco dovrebbe essere qua quando spediscono, però. Giomari, capito? strano però, che a te è successo male una cosa del genere. Non l'hai spedito, che a te è pagato e non l'impedire di queste cose. Ma insomma, loro non li hanno di questa attrezzo. Sì, perché loro mettono la data, capito? Ma bisogna vedere quando spediscono, però non è detto che spediscono subito. Infatti mi dice pagato ma non spedito, se no mi avrebbero anche mandato il numero, capito, di spedizione. Non mi rispondono neanche i messaggi, che tu non devi guardare quello. Quella data lì loro la mettono se spediscono subito. Subito il giorno massimo, il giorno dopo massimo. Ma se tu paghi, ma loro non spediscono, quella data lì non vale a niente, Giovanni. E a così, arrasti cose. Ma c'è il numero di telefono? C'è nel computer il numero di telefono? A telefonare fino a poi se l'hanno spedito. Io so sempre, guarda, gli ho mandato messaggi. Adesso l'unica cosa che possiamo fare è aspettare il giorno della scadenza, solo quello. Sì, allora, siamo qua allora. Va bene, Lu. Aspettiamo allora, vediamo un po'. D'accordo, Lu. Va bene. A me già mi arriva la notifica quando mi rispondono. Questo forse è il quarto messaggio che li mando. Vabbè, fammi sapere, se ti mandano il messaggio, fammelo sapere. Eia, tranquillo. Ok, va, ci sentiamo dopo. Ok, a dopo. Portate fuori, per favore, 5 pacchi di ghiaccio cubetto. Quanto mi chiede qua? Avanti. Perché che si sente male? Giammari! Ho detto che si sente male! Gargamella! E beh, cosa stai combinando? Mi ha appena rientrato, eravamo là forte, Giammari! Ah! A te ne è fresco fuori, sì? Attenzione, signor Bacchisio! Qualcuno mi sente, ragazzi? Attenzione Marino! Attenzione Gian Maria! Scatta un poco frusci Mario! A te dottore! Non sai fischiare no! Sei negato per il fischio. E io? E chi sta fischiando? Siete buona fruscia così? Oia! E te, chi tu pare oltre tomba? Perché non ero io, mi va però. Vedi tu? E allora era l'altro. Tanto siete silenziosi, io. Tu mandavi Luca Ida. Luca Ida. Paga Gargamella. Sta Gargamella. Poco fa c'era Gio Maria. Sì, se no si è ritirato. Andato a mangiare la pasta al forno. Oggi era di pasta al forno. Non lo so. So che era nella 27 e poi non lo so. Perché ho sentito gli altri, se ne sono andati sul 10. Ah, così è. Ha detto che non verrà altro nessuno e se ne sono andati sul 10. Chi? Gio Maria? No, Gianni e un altro che non so chi era. Ma chi era acceso, ma non c'è nessuno al 10. Ma cosa ne so? Erano sul 23 e poi se ne sono andati sul 10. e la salita. E a seminocchi noi, siamo unità a seminocchi. Senta, che tu? Ah, dalla Venezia ne se ne è andato. Luca! Luca la Gargamella! Ma sempre di cosa? Adesso prende a farazzo. Non lo sai che è così. Che visto l'hai, eh? T'ha giudito io. Ecco, tu hai fischiato. No. Non ho fischiato io. Allora l'ho mangiato cagliura. Ma io sono diventato un canarino. E no? Tu vedo di Sassarie che è diventato un canarino. Ah, così è. E allora? Hai detto che si affruscia bene mettere i canarini. Allora già va bene, dai. Andiamo e andiamo. Davvero? Non da sei venti. No, nulla. Si adatte. Certo. Ma si dice, io sì che me ne frego, no? E a Rugrero. Vabbè. A Valenci. A Valencia che cosa? Boh, chi lo sa. Reddito di cittadinanza, non hai bigliato. No. Ma cosa? Bocciato. Tu sei... è troppo un reddito, papi. Mamma abbiglia 6 milioni di euro a me all'anno. Sì, che te ne bari. cosa c'entra tua madre con te? Io sono a casa di mamma. Le moglie Luisa c'è anche lei. Andiamo per andiamo, bobo. Dai. Aga non ha bisogno di rodaggini. Hai compreso? Sì, qua. Aspetta, l'anno da uno che vai via a rubare, pensa un poco. Bisogna vedere cosa ha dichiarato. Non lo so cosa ha dichiarato. Poi che andrà nel commesso, si è pigliato la multa da 15.000 euro. I furbi ci sono, ci provano. Va provato, non ha detto che vai via a rubare. Sapeva dove c'è cittadinanza che era 700 euro, ma se ne ponendo 15 di contravvenzione. Bisogna dichiarare giusto, bisogna fare i furbi, perché se poi dichiari poi loro ti mettono alla prova, poi fanno i controlli. E chi si comparavano lo champagne? Non è peggio. Vuol dire che poi si va via nei canali lo champagne, sarà il capo dell'ospizio. Basta, carità. Purtroppo risulta tutto. Con 700 euro già si può comprare. Ma niente che pigliamo 1.200, 1.500. No, più di 700 non te ne danno. 700 euro, se ce ne sono tre in famiglia lo prende solo uno. Così so io. Allora sei male. Perché quello che conosco io arriva anche a 1.200. C'è lui, la moglie, il figlio, poi siccome il figlio ha avuto un figlio, ce l'ha a carico, che è minorenne, e poi la nuora, sempre a carico, e poi 1.200 euro. È così sì, tutti in famiglia, basta però che non ci sia nessuno lavorando di loro. È per forza, se mica ti hanno così, comunque stanno chiamando al comune. Lo so che stanno chiamando, lo so, ti chiamano per 6 mesi. E poi devi aspettare, hai compreso? Però noi in questi 6 mesi, trovati 6 mesi e poi non pedi più nulla, certo. Quindi, e non lo devi rifiutare, hai compreso? Ma non si è impegnato anche, cosa rifiuti? Sì, c'è gente invece che si piglia chi su, travaglia, e sotto se ne deca un altro di travagliare. Praticamente ti inseriscono, poi magari se impari, magari ti assume qualcuno, chi lo sa. Una volta che finisci, sono ammaladato. Sì, è così infatti. Vabbè, lasciati fare i furbi. Poi, sai cosa è che, il discorso è che, quelli che hanno beccati nel bar, ristoranti, pizzeria. Lo so, quelli che lavoravano in nero. Ma ce ne sono parecchi che lavorano in nero. Lo so, tu sei qua. Ma già stanno passando i carabinieri con... come ti si chiama, chi su? Non me la metto più, non ti si chiama. Con? Sì, ci sono due carabinieri e uno che passano a controllare nei locali e tutto quanto, non mi ricordo come si chiama, uno dell'ispettorato di lavoro. Ah, l'ispettorato del lavoro, ho capito. Lui si presenta con i carabinieri, ti controlla, controlla con il datore di lavoro, ti fa chiamare a uno e gli chiede il libretto del lavoro direttamente e guarda a vedere se sono assicurati o se sono in nero. Vengo preso. Eh beh certo, devi dichiarare. Poi, ma sai che passa a Casini, che passa a Casini anche il datore? Perché se lui o lei glielo dice che percepisce il reddito di cittadinanza, non mette niente, passa a Casini pure lui. Eh sì. No, ma poi ti controllano se stai lavorando e se sei assicurato. Se non sei assicurato, Zibigliaia, 5.000 euro di contravvenzione il datore di lavoro e 5.000 euro di contravvenzione chi so che travaglia in nero. Lo so. Ma anche il datore di lavoro viene castagnato. E più si chiede un mese, due mesi di chiusura del locale. Ma ti goccia di negoziare agli enti senza assicura. Comunque dice non è entrato Luca poco fa, non c'era. Mi ha mandato il messaggio adesso. Che non c'era Luca? È paro due e tu. No, dice non era lui. Ah boh, alla nostra. Andà bene. Sono da Miro. Ehi, gli altri di entrare. Non ci trovo nessuno. Tutto chiuso. E purtroppo adesso li sentirai tra poco. Le carabinieri con lo spettorato, ce ne saranno un 5 o 6 in giro per tutta la Sardegna a controllare. Tanto già sono pagati anche loro. E loro sono pagati sì. E in tutti i bar, ristoranti, negozi, tutti quanti stanno controllando per queste cose qua. Non si bacia più nessuno, per la finanza pure che controlla. Preso. Beh certo. Purtroppo è così, è fazzine ve. E mi stavo leggendo che questi dei ragazzini cercano di affogare il cane legandogli una pietra al collo, ma te ne rendi conto? E quella gente l'avrà impunita proprio, chi sia minori, chi sia mandi. È tutto un coso, non si comprende più nulla, no? Tutto questo dipende tutto dai genitori, ecco cosa è, che non li educano bene. Infatti, cioè, ma ti imbari che tu figli un cane, figli di sigli animali, e trattalo come lo vuoi fare, a che ti mangi pure. E allora, non è chi su? Venne due la sadia, ma mi hanno lampato, anche da baciata, venerdì scorso, mi hanno buttato il petardo, me l'hanno fatta su sta, e ha giocato un cantone, ha sbicato a capo un pizzino, a uno dei pizzini, ha detto, bene ti fa così adesso, torna a buttarmela, e te ne butto una addosso di quelle grosse, e vieni, dirudoggio. Bimbimicchia si chiamano qui. No, roba bella mamma, vogliono i biliardi e portati direttamente all'ospizio, per educarli. Ma infatti, poi non ha prepotenza, guarda, la metà bassa. Sì, ma lascia un po' che il gantone l'ha fatto vero, Gabbo. L'ha piccato vero a capo, l'ha piccato. Certo. La carità, e poi mi dico, un ciappo che si tardita. E allora, e chi c'è là, dimmi? Oh, solo che hanno agito, devono buttare bombette che il comune era privato di buttare bombette e se ne ha futti. Ha coordinato un sindaco, non ho preso cosa mi ha detto. Ti ha detto? Si ti dico di andare un sindaco. E cosa il sindaco? Che le buttavo le bombette sopra il sindaco pure. Ah, sì, domani, va. Via. Il discorso è che questi bambini, altro, quelli, il giorno ce n'erano, due volte li abbiamo visti, ci sono delle aiuole qua, non sapete, di bottiglie di vetro, oggi mamma spaccando bottiglie per andare, mi ricordo a Bozzi, erano i 4 o 5, forse in Brusei, e gli butto un ticchino, vedi, fuggendo, ma fuggendo era tutto fuggito. Sì, la tradizione, no, 18, quindi erano 2 o 3 che erano i biscendi sotto il portico, e ci faccio a padone, come farebbe da culo, ma non sono stato io, oggi tu verrai fuori a biscendi, non sei stato tu, un santo manno d'uio. Ma paccalizia, va di schifo. Vabbè, voi mi sono educati poco. No, non sono stati educati bannunda, a cribilla di come vuoi, a casa gioia, le mamme, il babbo. E babbo, canale a cudi, hai fatto qualche cosa, non so, Eddi. Infatti. Infatti, chi su, se dico di voi e di Zerangetti. Ma ce ne sono bel comunque ragazzini, se ne stanno in giro anche tardi di notte. Poi ho saputo anche che hanno messo, non so se li hai viste, le nuove, nella fermata del tram hanno messo le cose nuove, no? Per ripararsi. Hanno messo anche i vetri, più di uno li hanno spaccato. Sì, lo so, sì. Te lo sto dicendo che li mollano da casa direttamente senza nessuna ragione le cose, ti ricordi pure a battere gli stessi anni da Gazzaretti, hai compreso? Che la mamma non voleva zattinirli, boh, e abbiamo abbigliato le mamme e abbiamo buttato direttamente in un istituto a coso, imparare i figliori a imparare come ti si fa dire la mamma, ero babbo. Infatti, papà carità. Ma molte volte sai cosa ho detto? Che tu Mari sei solo, tu, come posso essere io, ti sono Mari in dezzi, ti circondano mai, ti prendono la bottigliata, capi, sono pericolosi. Sì, che erano in due bizzini erano. Ma ci toccate, vedo un'occasione, va a dove mamma due ha danneggiato. Bebbo, hai detto, vai schifo. Ma sai cosa mi ha detto a me? Abbai dammi, giusto, dammi ciò che abbai dato io, abbai dato tu invece che condizioni sia, giusto. Guardati bene, allo specchio, e poi me lo dici. Ma infatti, va, la carità, va, uno schifo brutto. Ce ne sono tanti, tu, vabbè, cosa vuoi fare? Ma io sono una tocca dei genitori, chissà. Infatti i genitori vogliono presi e portati direttamente su al comando, dati ancora con la si educati, Edi, perché sono loro che non li educano come si deve. Ho capito, e vabbè, purtroppo è un casino, vabbè, meglio, molte volte è meglio basta baguarsi, evita, chissà mai, capito, ti fanno del male. Mari riesci anche a picchiarne uno o due, faccio un esempio, ma poi ti dentali o ti vado a ripetere la macchina. Ma oggi non sa c'era nessuno. Signor Bacchisio, Dio Maria. Attenzione, signor Bacchisio. Ma di voi se un bisogno mi sono Eddi. Ma se vuoi capitato tu non vedi per niente. Infatti. Magari so fanni, come si dice, stanno facendo cosa sicuramente. Vabbè. Tanto tra un po' è ora di cena. Sì, ma sa a 20 minuti. E bisogna andare a mangiare. Mia, allora qua c'è scritto reddito di cittadinanza, lavoro obbligatorio, fammi eccezione. Sono gli adruffa. Chi lo sa, si mette un fondo. Un casino è schiato. E ne va tu, Gito, campagna, a tu non è campagna. No, non ne ho comprato più e non mi interessa più le vanne. Hai compreso? Non mi interessa più. Devo salire su all'Aci per farmi il bollo della macchina, perché non so quando se si deve fare questo mese o se si deve fare aprile, compreso? Ecco, bollo ogni due anni così. Siccome io la macchina l'ho ritirata a luglio dell'anno scorso, E quindi non so se lo devo pagare a gennaio, se lo devo pagare a aprile o se lo devo pagare a giugno, boh. Ho capito. Di questo non lo so ancora quanto è il bollo. Non lo so. Dovrebbe essere 180, 185, boh. Allora qualcosa di più, là. È come quella, è come l'altra che c'avevo, pagavo 164 euro di bollo. Se come te dice è 164 euro. Già va bene, là. Già va bene. Come devo pagare chissà del garrello, 24,60 euro. Ah, cacciai. Il carrello della barca con il gommone. Ma si paga la tassa per... come si chiama? Per il cacciotraino? Un'assicurazione? Ci paga qualcosa? No, io non sto pagando nulla perché il mio gancio è estraibile. Il gancio traino è estraibile e non si paga. L'ho preso. Invece quelli qui si deve pagare 10 euro. Ah, ho capito. All'anno? Insieme all'assicurazione lo paghi. Ah, ho capito. Compro solo l'assicurazione. Ehi, vabbè, non è assai. Quindi il carrello paga... il bollo paga l'assicurazione. Ah, beh, certo. Che se lo lasci fermo fuori paga sia assicurazione che bollo. Eh beh, certo. E tanto si fatti di paga pure l'aria dei grippini tra un po'. E adesso guardo entro settimana se fa buono. Me lo porto e lo metto in moto il motore e guardo a vedere se gira bene. Che da un bel no, bong in moto. Ma il motore del gommone? Sì, il motore che c'ha. Ma dico, il motore del gommone parli? Sì, il motore del gommone. E mettere i muri di leva sotto? Mi bisogna un attacco di gufi con una bomba e io ci metto il coso attaccato alla pompa elettrica e ce la tira lui poi. Ah, vabbè, ci sono le cuffie anche, vabbè, sono una bacinella. No, gli metto un bidone, gli metto con una pompa attaccata, c'ha la pompa elettrica attaccata lo stesso al gommone e spinge l'acqua dentro nel motore. Se no si brucia, così. Sì, se no si brucia. Senza Eva non deve girare. Sì, ma dico, il raffreddamento se lo fa con l'acqua. È giusto, il raffreddamento se lo fa con l'acqua, sì. Ho capito. Bisogna stare attenti anche per quello. Sì, altrimenti... come si dice? Altrimenti crepi tutto. Quanti cavalli è? 25 cavalli è. Però è 38. Ah, modificato, viaggia? No, è così dalla casa, 25-38, quasi 40 cavalli. Sì, ma dico, viaggia, sì. Te si viaggia, a voglia. Ma tutti mi hanno detto di munirli un 40, però un 40 è troppo. Si beggia dritto da bui. Quanti nudi? Sarà 10-15 nudi. Equivale a quanti chilometri? Ah boh, non lo so, non l'ho mai misurato. Comunque viaggia, là. Attiraggi, attira, non ti preoccupare, attiraggi, attiraggi. Vabbè, si viaggia, già andava bene, là. Già, vabbè, ci vuole anche il posto. Ascolta, quanto si paga di assicurazione, sto, per il gommone? 30... no, 52 euro. Ah, all'anno? Sì, all'anno, si paga all'anno. Una cazzata. 50 di assicurazione, 33... no, 26 euro di bollo. Quindi, 33 euro di assicurazione del carrello, sono 120 euro. Sì, vabbè, la fine, sono poco, lo paghi tipo 3, 4, 7, 5 euro all'anno, già va bene. Infatti, oh, se riesci a acciappare un altro motore di vessu direttamente a benzina, che gli sei a miscela, se lo trovo a cambiarglielo, a mettere la benzina, glielo cambio. Ah, a due tempi questo? A due tempi sì. La benzina è diverso, tutt'altra musica. Quello c'era quando l'ho preso, c'era quello lì. Era giù roba di 10 anni. Vabbè, non ti hai mai dato problemi, gli hai fatto la revisione, niente. Mai dato problemi, lo motore. Mai dato problemi, sempre messo a posto e tutto quanto. Sono uscito sempre in coda. Una volta solo, ma un anno mi ha dato... No, una volta solo mi ha dato... Che si è rotta la calamita del volano, si è spostata. Ne ho trovato un altro ed è sempre andendo. Ogni anno lo metti d'acqua? Veramente, noi, ha abbassato la giudrata di una volta, giuro. Che cazzo, e come mai? Che non va via a tempo, dici di vannunda e vanno, non so che sanno cosa combino. Vabbè, ma di così ce l'hai? Lo usi, no? Sì, magari per lui, vabbè, alla fine non sappiamo quando va a metterlo. Io prima ce l'avevo sotto casa, di fronte ce l'avevo. Magari non hanno rifasciato un delone per controllare cosa vira, se c'è qualcosa a Trento. Ho sbagliato e ho trovato un garage e ce lo sto mettendo dentro il garage. Pago 60 euro a Rumisi. Me lo sento tranquillo, chi sto drappa lì, tu devi lampare a voi. A te la gente cattiva in giro, baccarezza, la trovone in fuoco. Ma tu drappa lì. Infatti, va, fate più ben ritirato e tutto. Ma se c'è pure qualcuno che sul compareggia, ve lo vendo. Quanti metri è? 4 metri con 25 cavalli. Ma che la pilotina, anche la cosa, la... Ma... la pilotina, come si dice, ma... La console. E la console? Sì. C'è anche la console con avviamento elettrico. Buono. Chi sono? Non so se sei iscritto a Facebook. Il gruppo. Lo dico subito, però... Puoi anche provarci. Sono su subito.it. L'ho messo... E siamo giunti a vederlo un bel niente e mi ha detto che non si rubaria. E ha detto gli affrazzi che già in chi vi ha giusto. Ma molto lo stai dando? 2000 euro lo stavo dando. Scatti. Non è assai, no? Ma è nuovo, messo bene, sì. Messo bene, tenuto abbastanza bene, sia il carrello che tutto quanto. Fatto l'anno scorso, ho fatto di... cosa ho fatto? La revisione, buru. 2000 euro. Va bene, dai, qui già viaggia. È il motore che capita miscela, se sta benzina i motori. Se ne ha già dato un bel dei gommoni su subito.it, ti fanno il motore come intero mio, a miscela. Ma comunque, vabbè, fatto c'è la barca, c'è. Tipo la pilotina, da cui sono in resina. Dice che c'è un bel motore che viaggia un bel. Anche il mio è sotto, la chiglia è in vetro resina. E quindi sono giunti lì, sì, un bel niente è giunta e mi ha detto che non si rubaria. Ha detto che rimane in chibi, ti preoccupare. Quindi. Vabbè, comunque 2000 euro già, adesso non sta venendo di più. 2000 euro già, se hai messo bene, come stai dicendo, già va. Cazzo, il garrello è a posto di tutto. Pensa un po'. È tutto a posto il carrello. Ho già cerchioni con le gomme nuove. Cioè gli do i mozzi con i freni, perché quelli che ci sono senza freni. Ho capito, vabbè. Raga, lo tengo, se lo vuoi, mi sa chi fa se vuoi, tu lo prendi in due. Comunque c'è bello il gommone, capo, ti fai i giri, la famiglia, non so se salgono anche loro. Oh, non da va, vabbè dai, mi sono ciamendi, Luca. ci sentiamo alle prossime, ok, ciao. Ciao Tommy, anche io mi sto preparando la cena, alla prossima, ciao.